Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Un magazzino che contiene tante casse, alcune nere, alcune gialle, alcune rosse, dovendo scegliere e studiare le mie mosse, sono all'impasse. Mi sto accorgendo che sono giunto dentro casa, con la mia cassa ancora con il nastro rosa. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi, 1 ottobre, inizia il mese della prevenzione del tumore al seno, una prevenzione tutta al femminile che è stata raffigurata con un nastro rosa. Rosa il colore delle donne, rosa il colore di tutto ciò che è tipico della femminilità. Rosa diventa in questa ora, per l'occasione, anche il nostro numero verde 800 24 0024, per raccontare una storia, chiedere un consiglio, lanciare un messaggio, cercare una spiegazione, segnalare un iniziativa. Qua in studio con me oggi la dottoressa Giovanna Gatti, senologa e responsabile della comunicazione scientifica e new media dell'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Buongiorno e bentornata. Felice ottobre rosa a tutti. Dottoressa Gatti, oggi noi ci rivolgiamo a tutte le donne perché la cultura della prevenzione deve essere continuamente sostenuta, naturalmente non solo nel mese di ottobre, in modo da anticipare il più possibile la scoperta di un'eventuale neoplasia che, ricordiamo, non fa distinzione d'età. Non fa distinzione di età, per fortuna anche nella possibilità di essere scoperta e curata, perché se è vero che purtroppo il tumore al seno può riguardare e riguarda sempre di più anche donne al di sotto, per esempio, dei 40 anni, qualche volta anche al di sotto dei 30 anni, è altrettanto vero che le cure, la diagnosi precoce, permettono di ottenere un ottimo risultato in termini di guarigione anche nelle donne molto giovani, quindi siamo qui per questo. Ciascuno di noi conosce direttamente o indirettamente una storia di tumore al seno. È quasi inevitabile, dato che si stima che in Italia siano oltre 46.000 le donne colpite ogni anno, con un'età media sempre più bassa, un dato che è stato sottolineato dalla LILT in occasione della presentazione della campagna Nastro Rosa di quest'anno. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Ilaria Malvezzi, direttore generale della LILT sezione di Milano. Dottoressa, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a voi. Dottoressa, iniziamo subito dai dati. I dati, come ha citato prima la dottoressa Gatta, che saluto, e sono importanti, ma sono anche dei dati che non ci devono spaventare, perché si guarisce, nel 98% dei casi si guarisce. Quindi oggi noi abbiamo circa 45.000 donne che si ammalano ogni anno e si abbassa sempre di più però l'età in cui si ammalano. E i dati dicono che circa la fascia di età fra i 25 e i 44 anni abbiamo un incremento di circa il 29%. Questo cosa vuol dire? Che purtroppo sempre più le donne giovani si ammalano di questa malattia, e di conseguenza l'importanza che hanno le campagne di educazione sanitaria o questi mesi rosa come questo di ottobre della prevenzione per sensibilizzare. Assolutamente. Di sensibilizzazione è fondamentale per tranquillizzare, per dire noi, anche se c'è la malattia, anche se arriva, sappiamo benissimo oggi che la possiamo affrontare nel miglior modo possibile. Quindi il mese rosa è proprio pensare in rosa, pensare positivo. Mi piace. E sottoporsi alle visite. Allora lanciamo il nostro numero verde, che oggi per l'occasione diventa rosa, 800 24 0024. I messaggi al 349 238 6666. Potete anche naturalmente seguirci su Facebook e su Twitter. La sorella di mia madre è morta di cancro al seno, e anche mia nonna. E lei com'è? E io non ho mai fatto una mammografia. Salve. Vorrei prenotare una mammografia. Certo. Il nome? Abby Lockhart. Dottoressa Gatti, nel nostro paese vige ancora la cultura dei 50 anni di età per l'avvio dello screening al seno, così come la cadenza della mammografia ogni 2 anni. Mi conferma? Confermo, ed è una cosa buona. Ma il tumore va a colpire donne, l'abbiamo sentito anche dai dati, che non hanno ancora l'età per essere inserite in un programma di screening. Questo è un motivo in più per sensibilizzare tutte le donne alla cultura della prevenzione e renderle sempre più protagoniste della tutela della propria salute. Questo è il messaggio che vogliamo dare oggi, che vogliono dare tutte le campagne. E Ma vogliamo ricordare quali sono i passaggi, gli appuntamenti chiave per una prevenzione che ci permetta, come diceva la dottoressa Malvezzi, di pensare in rosa? Certo, Ilaria Malvezzi ha perfettamente ragione quando parla di prevenzione che non deve essere paura, anzi rassicurazione. E allora è vero che lo screening mammografico attualmente, nella maggioranza dei casi, con alcune eccezioni, riguarda donne dai 50 anni in su ogni 2 anni. Bene, noi siamo donne, siamo consapevoli e vogliamo conoscere tutte gli strumenti adatti. Dai 30 anni in poi, per esempio, esiste l'ecografia mammaria, che può essere ed è anzi un ottimo esame per la mammella, tra virgolette, giovane. Giovane. La mammografia stessa può essere eseguita dai 40 anni, anche non in corso di screening, per scelta della donna. Devo dire, per esempio, stiamo parlando con Ilaria Malvezzi, quindi parliamo della LILT. La LILT ha tanti ambulatori che possono essere un valido aiuto per questo. Allora, la donna dai 30 anni può cominciare con l'ecografia mammaria, poi dai 40, senza abbandonare l'ecografia, può fare la mammografia, e poi è chiaro che quando arriva la chiamata dello screening, quello è un aiuto in più. Bisogna però che siamo tutte consapevoli che alcuni esami possiamo chiederli noi. Dottoressa Gatti, nel suo romanzo Il male dentro, edito da Cairo, di cui abbiamo parlato spesso, perché aiuta a vedere la malattia anche sotto un'altra luce, a un certo punto però lei critica l'eccesso di diagnosi precoce, vero? Non è un po' pericoloso? Lei è scrittrice, ma è anche medico, è senologa, con le donne parla ogni giorno, le donne le vede ogni giorno, donne che affrontano la diagnosi, affrontano la terapia, donne e i loro compagni, la loro famiglia, il loro universo che oggi stiamo invitando a chiamare, a contattarci, ma insomma non è un po' pericoloso, azzardato mettere in dubbio uno strumento così importante? C'è un eccesso? Nel romanzo, a un certo punto, io faccio dire a una protagonista che questa diagnosi precoce, così raccontata, prescritta, sbandierata e fatta, può portare a un eccesso di diagnosi di piccole lesioni che non si sa se diventeranno tumore oppure no. Però le persone che hanno queste lesioni entrano in un tunnel di terrore. Allora, questo in realtà è vero. Io non ho paura dei dubbi. Da medico e da scrittore ho il dovere di spiegare alla gente che la diagnosi precoce è uno strumento che diminuisce la mortalità per tumore al seno. Quindi resta in assoluto uno strumento valido che io da medico prescrivo e spiego alla gente. Però alcuni dubbi esistono. Allora, non dubbi sul fatto che sia utile, ma quando, quante volte, con quali esami, con quale cadenza, e poi proprio per tutte le donne vanno bene sempre gli stessi esami? Questi dubbi ci sono e stiamo studiando. E noi vogliamo raccogliere i dubbi delle nostre ascoltatrici 800 24 00 24. I controlli riducono la mortalità, ma soffermiamoci su questa frase. Spesso le donne hanno così interpretano la diagnosi, cioè i controlli, come una sorta di protezione nei confronti del tumore. Ma come? Ho No. scoperto un nodulino, eppure ho sempre fatto la mammografia. Ecco, questo è proprio un concetto su cui bisogna insistere. Sì, esatto, perché c'è una grossa delusione quando in una donna c'è la diagnosi di tumore e quella donna si sottoponeva tutti gli anni agli esami. In realtà la diagnosi precoce si chiama prevenzione secondaria, perché non è capace di impedire l'insorgenza del tumore, ma lo trova quando è talmente piccolo e iniziale da essere molto meno pericoloso. Questo è da spiegare perché altrimenti ci si illude nei confronti della diagnosi precoce. Dottoressa Malvezzi, anche quest'anno la LILT è in prima fila per aiutare le donne. Abbiamo ricordato tanti ambulatori in cui le donne possono recarsi ed è in prima fila per fare informazione che è alla base della prevenzione. Ci sono tante iniziative in rosa, i monumenti di tutto il mondo si tingeranno di rosa, colore proprio simbolo della lotta contro il tumore al seno. Certamente. E volevo aggiungere questo a quanto ha detto la dottoressa Gatti, che la diagnosi precoce non è un talismano, nel senso, perché io l'ho sempre fatto, la malattia non mi verrà più. È proprio è il talismano invece per dire: se per caso c'è qualcosa, io sono arrivato in tempo. Certo. Quindi l'importanza è quello che nelle campagne di sensibilizzazione, proprio questo mese di ottobre sempre, per portare questi messaggi alle donne, l'importanza è farla, e farla con regolarità. Un'altra cosa che deve passare, La diagnosi precoce ha senso se viene fatta con le cadenze giuste, corrette, perché non è, dice, la faccio un anno, per 3 anni salto, la faccio fra 2, no, ha efficacia e ha senso con determinate cadenze. Poi sarà proprio il medico che dice alla signora se c'è per caso qualcosa di diverso che cambia la regolarità, ma questo è un discorso personale, noi parliamo sul generale. Quindi la vogliamo portare sotto casa questa diagnosi precoce, la Lega ha 106 ambulatori in tutta Italia, nel mese di ottobre vi saranno le unità mobili che gireranno anche paesi, non solo le grandi città, ma anche paesi più piccoli, in cui le signore forse fanno più fatica a raggiungere i centri dove vengono effettuati o gli screening, o ci sono gli ambulatori della Lega, conferenze e poi momenti di cosiddetti sensibilizzazione, che sono i monumenti illuminati di rosa per ricordare il problema, e qui grazie a tutta l'operazione e al supporto che viene dato da Estée Lauder, che con la sua fondazione da più di 20 anni sostiene. Quindi, questa campagna, il nastrino rosa. Le vie della moda in tutto il mondo incominceranno a illuminarsi anche loro di rosa, e noi siamo molto contenti che in Italia siamo stati i primi a iniziare questa strada grazie all'associazione Monte Napoleone, che dedica un'intera giornata di shopping per la Lega Tumori, ma che dà il via alla moda che si unisce, certo, la donna alla moda pensa alle donne, quindi ci sono donne, allora la loro salute insieme, sono le alleanze che sono molto importanti e che vanno portate avanti. E poi il numero verde. Dunque, ricordiamolo. Ecco, questo è importante perché tutto il mese di ottobre gli ambulatori della Lega in tutta Italia sono aperti per informazioni, ma specialmente per visite, per le prime visite alle donne, e il numero è 800 99 88 77, oppure consultate il sito della Lega www.lilt.it. Sono, dottoressa Malvezzi, sono visite gratuite? Sì. Non c'è nessun bisogno di impegnativa del medico, no, andiamo, si va, si telefona al numero verde. Il numero verde, se vuole lo ripetiamo, è 800. Vedi che è radiofonica la dottoressa Malvezzi, perché lo sa, lo mettiamo anche sulla nostra pagina, 800 99 88 77. Grazie dottoressa Malvezzi, grazie all'impegno della Lilt. Ricordo che oltre alla Lilt c'è anche la campagna Freccia Rossa, le Ferrovie dello Stato incontra donne, il Ministero della Salute prevedono la distribuzione sui treni di opuscoli, ma anche visite e consulenze su 2 Freccia Rossa Trenitalia. A proposito di donne, si promuovono anche, aderiscono alla prevenzione in rosa, la campagna delle Stelle Olimpiche e della Nazionale di Vela. Insomma, tutte le donne, ma noi vogliamo anche naturalmente il sostegno dei nostri compagni, delle nostre compagne, dei nostri figli. In linea con noi abbiamo Gabriella dalla provincia di Cosenza. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. Io volevo solo segnalare un'iniziativa che mi sembra molto bella, perché sono giovani ragazzi che si occupano di questo problema. Sono dei gruppi di musicali che fanno musica metal e, diciamo, che non entra, e rock, che hanno scritto una canzone insieme. Sono gruppi che appartengono alla sono svedesi, americani, italiani, inglesi, che insieme hanno fatto questa canzone, e adesso in occasione di un festival musicale che si chiama Trash Fest a Helsinki presentano questa canzone per poter finanziare la ricerca contro il tumore sul cranio del seno. E loro hanno fatto questo perché appartengono a un gruppo. Aspetti, le passo chi è direttamente interessato. Bene, così vogliamo poi anche sentirla. Salve. Buongiorno e complimenti. Grazie. Ci racconti? Allora, praticamente niente, noi siamo una band italiana che fa parte di un'organizzazione internazionale che ha sede in Delaware, e praticamente tramite questa agenzia promozionale abbiamo deciso di fare scrivere questa canzone che si chiama Warriors, e che praticamente vede coinvolti dentro personaggi della scena musicale internazionale, come ad esempio Izzy Slade, che è il bassista di Joan Jett, storica musicista rock. E la canzone verrà suonata a Helsinki. Sì. Venerdì sera, durante il nostro concerto. E poi lei ce la manda? Volentieri, molto volentieri. Facciamo questo patto per le ascoltatrici di Essere Benessere, poi noi la possiamo mettere sul sito e diventa un po', oltre al nastro rosa, la canzone di Helsinki? Certamente. Va bene, complimenti, grazie, grazie, grazie di avermi chiamato. Buona giornata. Buona giornata. A voi. Jessica da Milano, buongiorno, all'800240024, benvenuta. È caduta? Dottoressa Gatti, allora sì, abbiamo ricordato l'importanza della prevenzione, ma mi scrivono ad esempio Fernanda, ma anche altre ascoltatrici che sto perdendo dai tantissimi messaggi che stanno arrivando, mi scrive: la migliore prevenzione è l'autoanalisi quotidiana sotto la doccia, come ci insegnavano ci insegnava secoli fa il libro Noi e il nostro corpo, no, ci sottolinea Fernanda. No. Allora, l'autopalpazione, quanto è importante tutti i giorni, mi sembra diventi un'ossessione. Noi stiamo parlando di diagnosi precoce, che significa diagnosi di tumore quando non è palpabile, quando è talmente piccolo da non essere palpabile. Quindi non tolgo nulla al valore di una palpazione che ci fa conoscere il nostro corpo, ma l'ideale in termini di possibilità di guarigione è scoprire il tumore quando ancora non si sente con le dita e neanche il senologo, che ha una grande esperienza, lo sente con le dita. Quindi sono gli esami che vedono il tumore piccolo. Poi, per carità, è chiaro che conoscere il proprio corpo è importante a priori. Vogliamo dire come si palpa il seno? Sì, allora, in piedi, sì, e poi sdraiati. In piedi mi guardo allo specchio e prima guardo il seno. Guardo se i due seni sono simmetrici, se la pelle è a posto, se i capezzoli hanno sempre la stessa posizione. Quindi guardo se il mio corpo è come me lo ricordavo. Poi alzo un braccio e con l'altra mano vado a toccare il seno del lato in cui il braccio è alzato, e poi faccio la cosa opposta, quindi braccio sinistro su, mano destra, sento il seno sinistro, braccio destro su, mano sinistra, sento il seno destro, e lo esploro tutto con calma, prima superficialmente, poi schiaccio un po' di più, e faccio questa cosa in piedi e poi sdraiata, e cerco di apprezzare le anomalie. C'è qualcosa di duro? C'è qualche avvallamento? C'è la pelle che tira un po'? Lì ci va l'attenzione, capire se c'è qualche cosa di anomalo. È anche importante vedere se per caso esce del secreto, cioè del liquido dai capezzoli. Un po' di liquido può essere normale, ma dipende dal colore, da dove esce, quando esce. Abbiamo Brigitte da Udine all'800240024. Dubbi, racconti, storie, ci è stata già segnalata un'iniziativa, consigli e confronti. Oggi vogliamo proprio dedicare questa puntata a parlare della nostra salute, della prevenzione, di come noi ci rapportiamo nei confronti di questo tumore che ci fa paura, ma che possiamo assolutamente battere se siamo capaci di individuarlo precocemente. La dottoressa Gatti ha sottolineato che ci sono delle lesioni che solo le macchine, chiamiamole sì, così, ecografia, mammografia, possono individuare. Quindi l'autopalpazione, benissimo, i controlli sono però necessari. Brigitte, eccola qua. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io ho 49 anni. È dall'età di 40 che faccio ogni anno la mammografia e l'ecografia, mm-hmm, perché ho delle cisti. Sì. E, l'anno scorso una di queste ciste è cresciuta in modo esponenziale ed era molto doloroso. Le confesso che ho preso un gran spavento. Sì. Ho fatto di nuovo la mammografia, mi hanno detto che non era niente. E quando la cista è dolorosa non ci sono pericoli. È vero? Volevo sapere sì, se sì, il fatto di farlo ogni anno con questi raggi X non è altrettanto pericoloso. No. Grazie Brigitte. Sì, ha perfettamente ragione nel senso della domanda, però non è così pericoloso perché in un bilancio rischio-beneficio si è visto che la mammografia dai 40 anni ogni anno riduce del 50% il rischio globale di morire di tumore al seno. È vero che esistono delle radiazioni, ma quel carico di radiazioni è nettamente inferiore rispetto al beneficio atteso. Voglio salutare, prima di andare ai mercati, il professor Alberto Luini, che è in linea con noi. Professore, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi, buona giornata. Direttore della divisione di senologia dell'OIEO e co-direttore programma Mammella dello stesso istituto. Insieme al professor Luini, tra poco risponderemo alle domande di chi ha subito un intervento, ci sono molti di voi che mi stanno scrivendo, sta per affrontare un intervento, ci sono delle novità, come sono cambiati gli interventi, a tra poco, insieme al professor Luini, 800240024, mercati, meteo e poi di nuovo qui per una prevenzione tutta al femminile. Guardiamo in faccia il tumore, sappiamo che esiste, non dobbiamo averne paura, possiamo batterlo. Essere e benessere. Primo ottobre inizia il mese della prevenzione in rosa. Parliamo di tumore alla mammella, lo facciamo con il professor Alberto Luini che è in linea con noi. Professore, le nuove frontiere della diagnosi, della chirurgia e della radioterapia stanno trasformando l'intervento in sala operatoria in una, come dire, cura risolutiva multispecialistica e definitiva, aggiungerei, per la maggior parte dei tumori, è così? Ma guardi, è senz'altro corretto quello che lei sta dicendo. In realtà io vengo adesso dalla sala operatoria che si trova qui nel piano sottostante al mio studio, dove ho appena concluso un intervento a una paziente che aveva un nodulo molto piccolo della mammella, un nodulo che era circa 4 mm, quindi una misura veramente minima, direi, e questa signora ha fatto un intervento di quadrantectomia, ha tolto ed è in corso attualmente l'esame del linfonodo sentinella ed ha fatto un trattamento anche di radioterapia intraoperatoria. Questo trattamento di radioterapia intraoperatoria, considerando l'età della signora, che era un'età dopo la menopausa, e le dimensioni veramente esigue del nodulo, è un trattamento che noi consideriamo risolutivo, cioè viene fatta un'unica somministrazione di radioterapia durante l'intervento, dopo naturalmente aver asportato la zona patologica e ricostituiti i piani ghiandolari della mammella. Questa signora oggi pomeriggio, nel tardo pomeriggio, verrà dimessa e tornerà a casa, quindi questo è un risultato molto concreto. E naturalmente questo è avvenuto, è stato possibile perché la signora si sottopone da anni a controlli senologici e nel corso di uno di questi controlli eseguito recentemente è emerso questo piccolo problema. Perché la dimensione, professor Luini, voi parlate sempre, no? Quando parlate di la dimensione è fondamentale per questo. La dimensione è fondamentale. È chiaro che un nodulo di queste dimensioni, parliamo di 4 mm, non può essere scoperto solo con la palpazione, certo, solo con la visita, ma richiede il supporto di esami strumentali e proprio, diciamo, l'evoluzione della diagnostica senologica, sia intesa come diciamo apparecchiature sempre più sensibili, sia intesa come competenza del radiologo senologo, oggi ci porta a scoprire queste lesioni con grande frequenza. Noi pensiamo che in futuro almeno il 50% dei tumori della mammella saranno scoperti non solo dagli esami strumentali, ma avranno delle dimensioni veramente molto piccole. Oggi siamo intorno al 30%. Abbiamo in linea con noi Patrizia, ci chiama da Firenze. Buongiorno Patrizia. Buongiorno, grazie di darmi questa opportunità. Fra l'altro il professor Luini mi conosce per averlo contattata a distanza dall'Australia nel 99 e recentemente. Patrizia, dunque, venga la domanda, perché abbiamo tantissime donne che vogliono mettersi in contatto con noi, la ringrazio. Sì, Allora, dopo mammografia di controllo, seguita da altra mammografia ed ecografia, sono state evidenziate delle microcalcificazioni, a seguito delle quali mi è stata fatta una microbiopsia non chirurgica, con in stereotassi. E poi il risultato dell'esame istologico ha classificato queste microcalcificazioni come B3, lesioni a potenziale di malignità incerto. Quindi mi è stato detto che il prossimo passo, e non ho scelta, è un intervento chirurgico. Io vorrei sapere se è l'unica strada e se ci sono professor altre Luini, cose da poter approfondire. Grazie. Ma allora la signora fa riferimento ad una metodica diagnostica che è largamente utilizzata, che si chiama biopsia vacuum assistita e che viene effettuata dai radiologi con un apparecchio dedicato che consente in maniera estremamente precisa e mirata di asportare con un ago particolare, quindi lasciando un segno cutaneo minimo, dei prelievi nella zona dove sono situate le microcalcificazioni. Le microcalcificazioni sono un segnale importante che la mammografia ci fa rilevare, perché in molti casi sono espressione di una situazione del tutto innocua come la malattia fibrocistica, altre volte possono essere espressione invece di una patologia inizialmente evolutiva che ha vari gradi e può arrivare fino alla neoplasia in situ, la neoplasia intraduttale e poi fino al carcinoma mammario. Questa diagnosi che la signora ha ricevuto di B3 vuol dire probabilmente che siamo di fronte ad una lesione ancora nell'ambito probabilmente della benignità, ma forse con qualche atipia. Forse la parola malignità incerta è forse un po' eccessiva, sì, perché nella maggior parte dei casi si tratta in realtà di lesioni che sono l'anticamera di una lesione precancerosa, quindi è chiaro che si tratta di lesioni che è opportuno caratterizzare, ma nella stragrande maggioranza dei casi non sono pericolose e la loro asportazione previene la possibilità che, lasciata lì a se stessa, questa lesione nel tempo possa evolvere. Professor Luini, prima di salutarla, secondo lei fare la mastectomia preventiva è una reale prevenzione, per chi e in quali casi? Beh, è un aspetto questo molto delicato che sta diventando effettivamente un aspetto nuovo nel modo di affrontare il tumore del seno. Noi, come tutti sanno, veniamo da un'evoluzione che era partita dalla mastectomia radicale di Astrid, poi si era modificata la mastectomia con la ricostruzione, agli interventi conservativi e a una chirurgia sempre più ridotta associata a delle tecniche sofisticate come l'infrarosso sentinella e la radioterapia intraoperatoria. Quindi una riduzione sempre più della chirurgia a fronte di un'efficacia di trattamento immodificata. Però certamente questo problema del rischio genetico di contrarre il tumore del seno, che riguarda attualmente una popolazione non molto vasta, intorno al 7% circa di tutti i tumori che noi osserviamo, però certamente pone molti interrogativi, tra cui la necessità o l'opportunità di fare una mastectomia profilattica. Devo dire onestamente che l'episodio di Angelina Jolie ha di fatto creato un grosso movimento fra le donne. Ha fatto anche, come si dice, letteratura, no? Esatto, ecco. Esatto, esattamente. E devo dire c'è molta attenzione oggi su questo argomento, quindi è un argomento che riguarda il genetista, che deve ovviamente affrontare nel dettaglio le problematiche della signora, il suo problema della familiarità diretta e i casi di tumore al seno che si sono sviluppati nell'ambito familiare e dall'altro lato le misure che si possono oggi considerare per prevenire, diciamo, un rischio di contrarre questa malattia, quindi una predisposizione a questa malattia che certo. Non vuole dire certezza di ammalarsi, però ci sono dei casi in cui questa probabilità è davvero consistente, quindi l'intervento anche di mastectomia profilattica va preso sempre più in considerazione per molti aspetti, non l'ultimo quello psicologico, a fronte del quale la donna si sente liberata attraverso l'asportazione della ghiandola mammaria da questo da un rischio che altrimenti le la vedrebbe sulla, certo, la vedrebbe costretta, diciamo, a una sorveglianza strumentale molto più intensa rispetto a quella che viene consigliata, diciamo, a tutte le donne, ecco. Grazie professore per essere stato con noi, io la ringrazio, la saluto, è stato chiarissimo, ci grazie. Sono tanti messaggi che stanno arrivando dalle ascoltatrici di Essere Benessere che proprio sono rassicurate e anche stupite della sua estrema chiarezza. Grazie professor grazie, Luini. Grazie a voi, buona giornata. E dato giornata. Che le domande sono tante, noi continuate a chiamare perché fino alla termine della trasmissione daremo voce a voi. Se nel pomeriggio avete desideri, avete un dubbio, una domanda da fare, potete mandarla sulla nostra pagina Facebook e la dottoressa Luini, il professor Luini e la dottoressa Gatti potranno rispondere. 800 24 00 24, naturalmente vorrei sottolineare, abbiamo parlato di diagnosi precoce, sì. Abbiamo parlato di terapie, siamo andate in sala operatoria. Veronesi ha più volte detto che non è difficile togliere un tumore del seno di una donna, il difficile è toglierlo dalla testa. Ne parleremo tra poco con l'esperienza diretta di un'amica e vogliamo in questa ultima parte della trasmissione dare voce anche a tutte le persone che vivono insieme alla donna che è colpita dal tumore. Questa battaglia, la sorreggono, parlo dei compagni, delle compagne, delle amiche, dei figli, dei medici. È una lotta che diventa una proprio per cui bisogna fare rete. Ne parliamo tra poco, l'impatto psicologico, la vita cambia, bisogna imparare a vederla con altri occhi e forse tante volte la donna ha bisogno che qualcuno le insegni a guardarla in un altro modo. Essere e benessere. Il difficile non è sopravvivere e guarire dal tumore al seno, la mortalità, dottoressa Gatti, è diminuita in questi anni? Sì, sì, molto diminuita. Soprattutto se viene individuato precocemente. Sì, è un effetto combinato della diagnosi precoce e delle cure. Questo per dare un messaggio di positività anche alle persone che magari non hanno avuto una diagnosi precocissima. Anche le cure sono state... Ecco, ma anche le cure dopo l'intervento, post-operatorie, sono diventate più rispettose. Sì, soprattutto la terapia con il blocco ormonale, che comunque per la donna è un trauma, però diciamo conosce anche un'applicazione, diciamo, più mirata e anche una maggiore sensibilità dei medici nell'evitare o ridurre effetti collaterali. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Rosanna Banfi. Ciao Rosanna. Pronto, buongiorno, ciao Nicoletta. Grazie per essere qui oggi con noi perché volevamo parlare della difficoltà che si incontra a togliersi, no? Il tumore dalla testa e quindi ad affrontare una nuova vita, a creare dei nuovi rapporti, a relazionarsi con il proprio corpo, con gli altri, con quelli che ci stanno intorno, a metabolizzare, no? questa diagnosi che comporta un cambiamento. Rosanna. Guarda, io devo dire che per me sono passati quasi 5 anni, i famosi 5 anni, mm-hmm. E in questi anni, siccome faccio parte, come sai già, della Comen, questa associazione che si occupa appunto delle donne colpite da tumore, ho conosciuto veramente centinaia di donne in queste occasioni e tutte hanno in tutte, diciamo, riscontrato la stessa cosa, cioè una grande, grandissima forza che viene per forza, come dire, che ti arriva anche inaspettatamente, no? Tra donne che non si aspettavano, magari normalmente fragili, riescono a trovare in sé soprattutto la grande forza, soprattutto dopo, come dicevi giustamente tu, perché l'operazione in sé per sé a meno che non è un'operazione devastante perché magari il tumore è andato molto troppo avanti, l'operazione in sé per sé non è una cosa importantissima, non è grave. Le cure sono pesanti, cioè la chemioterapia, la radioterapia sono piuttosto pesanti, insomma si passa un anno difficile, almeno un annetto molto difficile, ma il dopo è ancora più difficile se vogliamo, perché devi ritornare padrone poi del tuo corpo, padrone della tua vita, con il tuo compagno, con i tuoi figli, e questo non è facile, è qui che insorge poi, è importante l'aiuto psicologico, l'aiuto delle altre donne. Io l'ho trovato, per esempio in questa associazione ho visto quanto è importante l'aiuto delle altre donne che già l'hanno passata e possono dirti, possono darti dei consigli, vivere con te dei momenti speciali. E questo, le donne che fanno rete aiutano a parlare della malattia e a superarla. Dottor... A parlare e a metabolizzarla. E poi scusami se ti interrompo. No, devi farlo. Che trovo importante, che bisogna dirlo, che purtroppo capita molto, ma molto spesso, che alcuni mariti, compagni, abbandonino le loro donne proprio in questo momento, per un, non lo so, per paura, per vigliaccheria. Purtroppo capita, e capita anche il contrario, per esempio come io sono stata molto fortunata, ho trovato un marito che è stato a fianco a me dal primo giorno all'ultimo, si è rasato i capelli insieme a me, voglio dire, ha fatto un gesto simbolico che a me è servito molto, e anche queste storie ho visto strada facendo, no? Ho visto giorni fa due ragazze omosessuali, una colpita dal tumore, pelata, e la sua compagna che si è pelata per lei. Sì. Pensate a questo gesto fatto da una donna, quanto è sì. importante. È commovente. Rosanna, io penso che, ma vorrei coinvolgere anche la dottoressa Gatti, il partner, la partner della donna, spesso ha bisogno di essere aiutata, perché alcuni scappano proprio per paura. Paura, sì. Bisognerebbe forse pensare anche a loro nell'accompagnamento di, no, di questa storia? Hai ragione, perché sarebbero giusti degli incontri con qualcuno. Le fa, magari che ne so, le buttiamo lì, magari la Comen, cosa dici, accetta un po' la proposta, mi sembrerebbe... Sì, perché no, perché comunque l'aiuto psicologico fa parte del nostro progetto e può comprendere anche il compagno, perché certo. No, perché è molto importante avere un qualcosa di solido intorno a sé a cui aggrapparsi per sì. uscirne fuori. Un uomo in linea in questa puntata tutta al femminile, tranne il professor Luini che è intervenuto come esperto. Federico, buongiorno. Pronto, buongiorno. Vi ho ascoltato con molto interesse, ecco, perché io sfortunatamente mia moglie sono 5 anni che ha avuto una mastectomia totale ad un seno e quindi la situazione è abbastanza pesante, anche perché non si è risolta. È abbastanza pesante anche perché quando ci si incontra, quando ci si vede, si chiedono tutti ma come stai rivolto a lei, e nessuno si rende conto del dramma. Sì. Che... Scusate. No, Federico, la capisco perché insomma sono parti, no? Sono parti della nostra vita, è come se il male aggredisse te due volte. Nel momento in cui, no, colpisce una persona che ami. Rosanna, diciamo una parola a Federico, che invito a scrivere se ci vuole, a Essere Benessere, per trovare magari un contatto, anche un aiuto anche psicologico, una segnalazione tramite magari un'associazione. Rosanna, a Federico che ci ha raccontato in diretta questo dramma, che cosa vogliamo dire? Abbiamo pochi secondi purtroppo. Che ti vogliamo bene, Federico, e continua così, stai vicino a tua moglie, perché insieme riuscirete a combattere questo mostro. Sicuramente la forza di due, di tre, di quattro, della famiglia, degli amici. Per questo io continuo a dire, chi viene colpito dal male non si deve vergognare, deve aprirsi agli altri, perché la forza degli altri diventa la forza tua. Apritevi, non abbiate timore, non vi vergognate, perché non avete nessuna colpa del fatto che avete un cancro. E prendete l'aiuto e anche la pietà degli altri. Io trovo che anche la pietà sia un bel sentimento. Sì. Non c'è niente di vergognoso se il tuo amico, il tuo vicino di casa dice poverina è malata. Sì, poverina è malata. Allora aiutala con un gesto, con uno sguardo, con una carezza. Si prende tutto da tutti in questi momenti, Federico. Tua moglie ti sarà sempre grata di quello che stai facendo per lei. Grazie a Rosanna Banfi, che abbraccio. Grazie a te, grazie per avermi fatto partecipare. Grazie. Grazie alla dottoressa Gatti per essere stata con noi. E allora, forza, se volete continuare a parlare con noi potete farlo su Facebook, gli esperti, la professoressa, il professor Luini e la dottoressa Gatti possono rispondere. Intanto grazie per i vostri interventi, per gli sms che ci state scrivendo. Grazie anche a Carmelo Lauricelli in regia alla parte tecnica e a Laura Vanossi come sempre in redazione. Buona giornata a voi. Essere e benessere.